Inizialmente abbiamo appunto scritto il manifesto, quindi ci siamo visti tra tutti gli studenti e le studentesse che fanno parte del collettivo e abbiamo dibattuto sui principali problemi che sentiamo di questo sistema scolastico e abbiamo capito appunto collettivamente che viviamo proprio personalmente nel soggettivo la scuola come una gabbia, quindi che ci sta veramente tanto stretta, sentiamo il bisogno di evadere e a questo ci siamo ovviamente dati anche una risposta. La risposta è il modello di istruzione che non funziona e in realtà non ha mai funzionato, perché non è soltanto con l'elezione poi di Giorgia Meloni al governo, ma è lo stesso modello di istruzione che continua da decenni nello stesso modo, quindi abbiamo bisogno di rivendicarci tutto ciò che sentiamo, come hanno fatto comunque studenti e studentesse negli anni precedenti, quindi abbiamo bisogno di continuare questa lotta e di urlarlo un po' a tutti. E siamo anche, a proposito infatti, molto felici che insieme a noi hanno occupato anche altre due scuole di Bologna e si sente veramente un clima unitario in questo momento tra gli studenti. Voi dite che insomma la presenza dei privati direttamente nelle scuole non vi va bene? No, assolutamente no, la scuola nasce come scuola pubblica aperta a tutti, sicuramente non classista, invece noi stiamo notando come più vanno avanti gli anni più la visione della scuola è appunto una visione classista. Nella nostra scuola il più del 60% dei finanziamenti vengono dai privati e non ci sentiamo a questo punto assolutamente rappresentati dal governo, che non dà finanziamenti ma li lascia dare dai privati, e i finanziamenti che il governo dovrebbe dare all'istruzione li dà a tutte le industrie belliche. Ritorna anche il tema di quella che era l'alternanza scuola-lavoro, adesso si chiama PTCO. Che abbiamo notato una dinamica anche giovanile, ma di e sfruttatori, che poi gli studenti delle scuole considerate di serie B vivono sulla loro pelle. Infatti anche questa occupazione è per continuare la lotta di Lorenzo, Giuseppe e Giuliano, che sono morti in un anno durante appunto gli stage del PCTO. Noi come scuola di serie A non siamo in primis mandati nelle fabbriche, ma ci sentiamo totalmente uniti, complici e solidali con tutti quegli studenti che sono obbligati ad andare nelle fabbriche a lavorare e a vedere un futuro totalmente precario. Voi parlate di disagio psicologico che state vivendo. Sì, il disagio psicologico anche insomma è quello sicuramente più sentito, più chiacchierato, perché è un discorso molto ampio, è molto anche soggettivo studente per studente, ma noi abbiamo notato comunque frequentando altri compagni di altre scuole insomma che è veramente un sentimento unitario. Ogni studente ha bisogno di un aiuto, entra a scuola e vuole andare via da questa scuola, soffre d'ansia, non si trova bene con anche proprio come i professori insegnano. Poi ripetiamo, non è colpa loro, loro anche sono vittime di questo modello di istruzione, però ci sentiamo appunto stretti in questa scuola e soffriamo, e crediamo anche che poi ultimamente è stato introdotto lo psicologo scolastico, ma ritornando al punto dei finanziamenti, è uno psicologo scolastico che vediamo probabilmente una volta ogni 3 mesi e che non funziona, e questo che vuol dire che non spendono abbastanza per la salute mentale, psicologica e fisica di quella che è la futura generazione. Voi avete occupato, insomma, perché vi ritenete che le vostre istanze non vengano ascoltate? La nostra occupazione sicuramente è particolare perché appunto essendo un'occupazione del Copernico, quindi una scuola considerata veramente con un gran nome, con delle grandissime aspettative, ci sentiamo soprattutto oppressi da queste aspettative e denunciamo in generale il modello di istruzione, che poi noi non abbiamo il tetto che ci crolla in testa, però lottiamo anche, occupiamo anche per tutte quelle scuole che hanno il tetto che gli crolla in testa, ma che non magari hanno la forza di occupare.